2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 18 e 19 settembre 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024 e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24, quindi potrete scaricare il file MP3 della nostra trasmissione. Vi ricordo che se vi abbonate al nostro servizio potete scaricare settimana dopo settimana il file di 2024 e quindi tenere anche un archivio, oppure fare come fanno molti ascoltatori che si godono il programma durante la settimana, magari a pezzetti di 10 minuti al giorno. La prima notizia che vi do tra quelle della settimana riguarda il mondo dei browser, i programmi di navigazione per la rete internet che stanno diventando sempre più importanti mano a mano che cresce l'offerta e l'utilizzo dei servizi basati sul web, come si dice web-based. Da mercoledì è disponibile Internet Explorer numero 9, che secondo alcuni esperti rappresenta un netto passo avanti rispetto alle versioni precedenti. I principali concorrenti di Internet Explorer della Microsoft, lo ricordiamo, sono Chrome di Google e l'ottimo Firefox della Mozilla Foundation, forse il migliore tra i programmi di navigazione, non fosse altro che per il numero incredibile di estensioni per personalizzare il programma. In ogni caso lasciamo a voi la prova e il confronto, ricordandovi che Explorer numero 9 è utilizzabile solo su Windows Vista e Windows 7. Questa è stata anche una settimana ricca di annunci nel settore della telefonia mobile. Sia Nokia che HTC hanno scelto Londra per presentare gli ultimi prodotti, mentre tutti attendono la presentazione l'11 ottobre di Windows Phone 7 per vedere cosa Microsoft riuscirà a proporre dopo gli scarsi successi del proprio sistema operativo in versione mobile. Saluto Massimo Morandi, il nostro esperto di telefonia mobile, appena tornato da Londra. Massimo, bentornato a 2024. Ciao Enrico, un saluto a tutti. Massimo Morandi dirige e guida la redazione di Cellulare Magazine e anche di Smartphone Magazine. Allora Massimo, non so da che cosa iniziare, forse per quota di mercato, visto che è il più grande produttore di telefonia mobile al mondo. Iniziamo da Nokia, che ha svelato cose non nuovissime, nel senso che erano attese già da un po' di tempo, ma ufficialmente ha svelato il famoso N8 più tutta una serie di altri prodotti e ha forse voluto dire siamo qua per rimanere leader del mercato. Cosa è successo in settimana a Londra? Beh, è successo che a Londra si è veramente consumata la grande sfida, la grande battaglia sul terreno, soprattutto naturalmente dei cellulari, ma dei cellulari smartphone. Sì, hai detto bene, Nokia ha voluto e ha tenuto a ribadire la sua leadership, naturalmente attaccata da più fronti in questo momento, ma c'è stato quindi un rilancio sia strategico sia di prodotto. Strategico perché? Perché dopo il cambio alla direzione del timone dell'azienda ci sono stati giustamente dei proclami, sono stati individuati gli obiettivi su cui bisognerà lavorare nei prossimi mesi, che sono naturalmente quello, a proposito di smartphone, di scegliere in definitiva la piattaforma software su cui puntare, proprio perché poi, come hai detto, fra poco verranno lanciati i Windows Phone. Realizzare il cosiddetto superphone, comunque uno smartphone, un telefono che faccia davvero concorrenza all'iPhone. In questo caso l'N8 sarà il portabandiera di Nokia per i prossimi mesi, un telefono molto elegante, un telefono completamente touchscreen, multimediale, addirittura con l'uscita HDMI. Questo telefono è stato molto chiacchierato proprio perché al suo corpo potrà essere addirittura attaccata una chiavetta, e le classiche chiavette, le pen USB che noi usiamo anche sul computer, e con questa semplice azione sarà possibile trasferire i file, le foto scattate, i videoclip e consegnarli direttamente all'amico che abbiamo di fronte. Poi naturalmente c'è il nodo dell'Application Store, dove Android e dove Apple volano. Nokia Obi non funziona ancora come dovrebbe funzionare, non è ancora stato riconosciuto come marchio e quindi anche su questo si dovrà lavorare molto. Naturalmente non solo strategia, perché solo con la strategia non si guadagnano quote di mercato. I telefoni presentati oltre all'N8 sono stati l'E7, il C7 e il C6, Ognuno naturalmente si segue sempre la filosofia del touchscreen, anche se in alcuni casi è stata aggiunta una tastiera slide, ma la filosofia è quella di lavorare su tanti ambiti. L'E7 lavora sull'ambito business, il C7 sull'ambito dei social network, quindi si rivolge a un pubblico più giovane, tutti i telefoni con un prezzo molto contenuto. Ecco, questa è un'altra novità che bisogna segnalare: Nokia sta facendo dei telefoni con grande attenzione anche al prezzo con cui usciranno nei negozi, perché in questi mesi abbiamo visto e sentito un po' di tutto e ci sono cose che stanno uscendo sopra i 700 euro e questo in passato anche per Nokia ha costituito il grande ostacolo alla vendita. Sì, anche perché insomma per questa cifra devi veramente dare valore. Senti, questo portabandiera, questo N8, quando sarà sul mercato anche in Italia e quanto costerà? Sarà sul mercato alla terza settimana di settembre, con molta probabilità tra la fine di settembre e i primissimi giorni di ottobre. Sarà distribuito da Nokia per la prima volta, per primo, nel nostro paese, quindi l'Italia sarà il primo paese ad avere N8 e il costo sarà di 469 euro. Parliamo di HTC che in settimana, sempre a Londra, viene spesso e oramai quasi solamente scelta in Europa come la città dove fare i grandi annunci per il mercato europeo, sempre in settimana, sempre a Londra, HTC ha presentato alcune novità, mi pare anche in questo caso non assolute, ma cose che già erano state anticipate al Mobile Congress di Barcellona a febbraio, Massimo. Sì, HTC continua, o almeno continuerà sicuramente per i prossimi mesi, a investire sul sistema operativo Android, che è la piattaforma di Google. È una piattaforma, come sappiamo, molto, molto solida. I telefoni sono belli, sono fatti anche con materiali molto solidi. Il problema di HTC è un po' il problema contrario a Nokia, quindi telefoni sicuramente affidabili, a un prezzo di fascia solitamente medio-alta, ma con un brand ancora che non è riuscito a sfondare sul mercato dell'elettronica di consumo. Quindi in questo senso la strategia di HTC nei prossimi mesi sarà quella di continuare a produrre e a presentare ottimi telefoni, ma anche di investire dei quattrini naturalmente per far capire a tutti i consumatori che HTC non è più il vecchio produttore che produceva per terzi e per operatori, ma è un grande produttore taiwanese che ormai distribuisce telefoni soprattutto, anzi esclusivamente smartphone, in tutto il mondo. Nella presentazione di questa settimana, che tra l'altro ha avuto un paio di siparietti anche interessanti, perché come hai detto tu, Nokia e HTC hanno presentato nello stesso giorno sulla stessa riva del Tamigi, quindi quasi le due presentazioni si sono scontrate, tanto che ci sono state addirittura delle operazioni di disturbo con delle ragazze immagine di Nokia davanti alla location della presentazione di HTC e con un pullman di HTC per i giornalisti davanti alla location di Nokia, quindi schermaglie che fanno capire però quanto la battaglia sugli smartphone sarà dura da qui ai primi mesi del 2011. Dicevo, HTC ha presentato due telefoni, il Desire HD e il Desire Z, quindi continua la linea Desire, Android 2.2, quindi ultimissima piattaforma di Google. Un paio di curiosità che ti voglio segnalare: nel Desire HD è un display enorme, 4,3 pollici, e il Dolby Mobile. Essendo questo un telefono con spiccate doti multimediali, si è detto facciamo godere ai nostri consumatori un film come un film deve essere visto, quindi anche col Dolby Mobile, quindi un audio surround, un audio molto più chiaro, cristallino e coinvolgente. Altra cosa invece simpatica è che è stato messo a bordo di questi telefoni un'applicazione di un e-reader, quindi un lettore di libri elettronici che consentirà di leggere i libri preinstallati sul telefono, ma addirittura di accedere a un piccolo store dove c'è una lunga lista di libri. Noi ne abbiamo visti quasi tutti i titoli inglesi, ma poi naturalmente piano piano saranno aggiunti anche titoli in italiano. Qui si potrà scegliere il proprio titolo, scaricarlo per pochi euro e leggerlo. E questi sono prodotti che saranno disponibili a partire da ottobre. Io mi stupisco sempre di queste caratteristiche che vengono inserite in questi terminali, piccoli o grandi che siano, ma comunque che vengono utilizzati anche in situazioni rumorose come ad esempio un mezzo pubblico. A cosa serve il Dolby Surround in una roba del genere? Ma i produttori inseriscono queste cose anche per poter spendere a livello marketing pubblicitario le proprie caratteristiche. Bene Massimo, io ti ringrazio, abbiamo sentito che una buona parte della battaglia si sta svolgendo nel segmento dei sistemi operativi, del resto di questo abbiamo parlato molto spesso e torneremo sicuramente a parlare in futuro 2024, quindi i nostri ascoltatori conoscono bene le dinamiche del mercato. Massimo, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. E noi ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, siete su Radio 24, tra poco. Alcuni di voi ricorderanno che durante l'estate, in modo particolare nel mese di agosto, è stata annunciata l'acquisizione di McAfee da parte di Intel. Quali sono i motivi di questa acquisizione che in qualche modo ha sorpreso il mercato o alcuni addetti ai lavori? Perché un'azienda che si occupa prevalentemente di silicio, della produzione di processori, di memorie, eccetera, eccetera, si impegna con, tra l'altro, capitali molto importanti nell'acquisto di un produttore di software e un produttore di software particolare che si occupa di antivirus, di soluzioni per la sicurezza. Beh, ne parliamo con l'amministratore delegato di Intel Italia, Dario Bucci, bentornato a 2024. Grazie a voi per l'invito. Partiamo proprio da questa notizia anche per capire come si sta trasformando il settore nel quale voi siete inseriti e potremmo anche dire il settore per i quali siete conosciuti prevalentemente. Voi vi occupate di silicio. Voi avete annunciato quest'estate l'acquisizione di McAfee, che è un nome noto nel settore degli antivirus. Che cosa c'entrano i due settori? Beh, forse bisogna fare una piccola premessa. Diciamo che, per citare Polo Tellini, che è il nostro numero uno, non è che Intel abbia una strategia di acquisizione, ma ha una visione, una strategia per portare sul mercato prodotti, e le acquisizioni diventano un sistema per accelerare, per complementare, per andare nella direzione più velocemente. La visione è che, diciamo, se oggi se ne vedono già un po' le avvisaglie, il computer non è più l'unico oggetto che accede a internet, elabora, contiene le informazioni. Ce ne sono circa 1 miliardo connessi a internet oggi, ma noi pensiamo che nei prossimi 5 anni arriveremo a qualcosa come 15 miliardi di oggetti di forme e dimensioni differenti, tutti connessi a internet, tutti in grado di elaborare informazioni. Parliamo di smartphone, parliamo di televisione intelligente, parliamo di automobili persino connesse a internet, parliamo ovviamente di varie forme, tablet e vari oggetti che ci contornano la vita e ci cambiano la vita e ci consentono modelli d'uso differenti. Bene, questa visione diventa fondamentale da parte nostra partecipare, avere un ruolo importante e fornire una continuità di esperienza per l'utente, quindi avere la stessa piattaforma che dal server di altissime prestazioni, primo dei 500 più veloci al mondo, ha l'oggetto piccolissimo, magari si parla di embedded, cioè di qualcosa dove di fatto l'intelligenza è quasi nascosta. Pensiamo alle famose macchine che da solo parlano tra di loro e si trasferiscono informazioni. Ecco, da lì avere una continuità di architettura e una continuità di esperienza per l'utente sia qualcosa di estremamente fondamentale. Chiaro che noi veniamo dal computer, dove sicuramente siamo leader e abbiamo un'esperienza molto valida. Poter andare nella direzione degli smartphone, delle televisioni intelligenti, dell'embedded, dei veicoli addirittura, comporta sicuramente grossi sviluppi interni per raggiungere quei 3 punti fondamentali che noi riteniamo facciano la differenza. Il primo è efficienza e prestazioni, quindi efficienza energetica fondamentale, perché molti di questi oggetti saranno in movimento e saranno a batteria. Quindi processori e piattaforme che consumano meno energia. Assolutamente, quindi diciamo non fare compromessi tra prestazioni necessarie e comunque energia consumata. Secondo, sicuramente tutto ciò sarà in assenza di fili, quindi la necessità di comunicare con tutte le possibili variazioni, diciamo, della comunicazione wireless. E terzo, il tema della sicurezza, perché questo diventa ancora più importante, considerando che molte delle informazioni non risiederanno poi fisicamente su questi oggetti molto piccoli. Pensate ad avere proprio tutto il proprio portfolio di titoli, di informazioni che stanno magari su un server lontano e a cui però io devo accedere necessariamente magari con un oggetto che è un oggetto molto piccolo, un telefono. Però chiaramente la problematica di essere sicuri in questa transazione rischia di invalidare un po' tutta questa visione. E quindi la terza, diciamo, il terzo punto fondamentale è quello della sicurezza. E quindi lunga risposta, ma quindi, siamo arrivati a dove volevamo. Quindi voi dite la sicurezza è così importante e noi vogliamo esserci, anche perché per voi, mi sembra di capire, il software, può sembrare strano, ma il software per un'azienda come Intel è già importante, ma diventa sempre più importante, tant'è che spesso fate parlare alla vostra responsabile software, parla sì Polo Tellini, ma anche chi si occupa del software. Cosa significa per voi il software? Perché voi siete impegnati anche, ad esempio, con Nokia nello sviluppo di un sistema operativo per smartphone, tablet e non so che cos'altro. Poi vedremo quando arriverà il primo prodotto, ma penso insomma che sia imminente con MeeGo. Per farci che cosa poi anche con questo software? Beh, è conseguente alla visione precedente. Questo ci costringe di fatto a trasformare un'azienda che è una chip company, quindi un'azienda di silicio, di processori, in una computing company, cioè un'azienda di soluzione di computer, dove alla parte hardware deve necessariamente affiancarsi anche la parte software. Tu hai giustamente citato MeeGo, che è un'esperienza fatta con Nokia. Recentemente abbiamo annunciato anche la fondazione di laboratori congiunti, una piattaforma open, no? Quindi di fondo è un open source, quindi basato su un'architettura tipo Linux, ma diventa fondamentale per questo continuum di computing a cui accennavo in precedenza, nel discorso precedente, cioè fondamentalmente dare la stessa esperienza a fornire le basi anche per le applicazioni dal telefono al televisore, all'automobile, al computer, passa anche da essere in grado di avere una piattaforma software comune, una piattaforma software aperta, ma se aperta deve essere assolutamente robusta, deve essere anche blindata da malware e antivirus. Consideriamo che dall'inizio dell'anno mi pare siano più di 10.000 le entità di malware virus che già siano state individuate fino ad oggi. Quindi in una direzione in cui il mercato esplode in termini di numero di oggetti, purtroppo questo è qualcosa con cui non si può evitare di fare i conti. Tornando brevemente, poi passiamo anche ad altro argomento, tornando brevemente agli antivirus, è già possibile ipotizzare qualche soluzione, qualche prodotto concreto per i prossimi mesi? In realtà questa acquisizione non nasce per caso. Noi stiamo collaborando da circa 18 mesi già con McAfee su un progetto, ovviamente in questo momento è molto prematuro parlarne, però un progetto che prenderà, diciamo, avrà luce e verrà annunciato ai primi mesi dell'anno prossimo. E quindi sarà di fatto una prima istanza di una grossa collaborazione tecnologica che è in piedi da diversi mesi. E proprio il fatto di aver lavorato assieme, il fatto di aver riscontrato affinità di vedute, aver capito che lavorando ancora più in stretta collaborazione, come un'acquisizione può consentire, si sarebbe stati grati di accelerare questo processo e portare dei prodotti dove l'integrazione hardware e software consentisse delle esperienze per l'utente ancora migliori. McAfee continuerà a fare i prodotti attuali o verrà integrata, inglobata all'interno di Intel? Allora, due risposte. La prima, abbiamo una storia di acquisizioni non tutte particolarmente di successo nel passato, che ci ha insegnato che la cultura Intel è molto forte e soprattutto se vogliamo acquisire non solo tecnologia ma anche mercati differenti, è importante tenere separate le aziende acquisite. Quindi McAfee avrà vita propria, continuerà a fare il suo business, servirà anche ai nostri competitor e sicuramente avrà lo sviluppo dei prodotti solo software come li conosciamo, quindi verrà mantenuta come entità separata. E dall'altra parte ovviamente noi avremo modo di trarre vantaggio di un'integrazione delle tecnologie, ma comunque Ricordiamo anche che McAfee è un buon investimento, no? Cioè Intel ha una grossa disponibilità di dollari, di cash, si può decidere di comprare bot, invece abbiamo deciso di comprare un'azienda. Ovviamente perché questo è, come dicevamo in precedenza, assolutamente coerente col piano strategico, ma anche perché è un buon investimento, perché è un'azienda che va bene, un mercato sicuramente in crescita per quello che si è detto in precedenza, e quindi guai se la si spegnesse inserendo. Sì, in effetti ho letto tra i vari commenti anche questo, cioè visti i tassi di mercato, perché non investire in aziende che invece rendono un po' di più dei bot oppure dei titoli americani. Adesso però cambiamo argomento, la prossima domanda è: perché Intel non ha un'offerta, non ha un processore per il mercato degli smartphone, uno dei settori più ricchi, a più grande crescita degli ultimi anni? Ne parliamo tra poco, adesso per noi c'è una breve pausa, vi aspettiamo tra pochi minuti. ...2024. Seguiteci ogni settimana, andiamo in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 16 e le 17. Il nostro programma è disponibile anche attraverso il servizio podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono online su www.radio24.it nelle pagine dedicate al podcast, oppure potete inviarci una email. Il nostro indirizzo digitale è 2024@radio24.it. Vi consiglio sempre di abbonarvi gratuitamente al nostro servizio podcast. In questo modo, settimana dopo settimana, avete la possibilità di scaricare il file MP3 del nostro programma. Io sono Enrico Pagliarini, in questa puntata è con noi Dario Bucci, che è amministratore delegato di Intel. E prima ho anticipato una domanda alla quale vorrei che Bucci rispondesse, cioè per quale motivo voi non siete presenti nel mercato più ricco e soprattutto con trend di crescita più elevati degli ultimi anni, quello della telefonia mobile, e in modo particolare perché non esiste un processore Intel per smartphone. Beh, innanzitutto hai ragione, noi siamo sicuramente in questo mondo delle new entry. Perché? Perché la volontà è di portare, come dicevo precedentemente, il valore della continuità dell'architettura, ma per fare questo si devono sviluppare dei prodotti che, mantenendo la stessa architettura che abbiamo sul personal computer che conosciamo, sui netbook che conosciamo, consentano lo stesso tipo di esperienza sullo smartphone. E ci sono delle barriere tecnologiche che fino ad oggi noi non eravamo stati in grado di superare. Uno soprattutto sono i consumi consumi di batteria, che devono essere world class, devono essere ovviamente comparabili con degli oggetti non compatibili con l'architettura PC. Un altro sono il livello di integrazione, no? Ecco, diciamo che l'architettura Atom, nelle sue evoluzioni, grazie anche al fatto che oggi siamo a 32 nanometri, ma è già all'orizzonte il 22, consente con questa ulteriore riduzione alla fine di fare degli oggetti che si difendono bene, anzi noi crediamo abbiano qualcosa in più degli altri. I nanometri sono, diciamo, le distanze, la finezza con cui viene prodotto il processore, fondamentalmente. Sì, diciamo che utilizziamo questa che è la dimensione del transistor, quindi dell'oggetto atomico, per definire poi la tecnologia con cui viene fatto il prodotto. Più è piccolo, chiaramente consente una riduzione di tutta la struttura del componente. Possiamo pensare che nel 2011 ci sia un prodotto per smartphone? Ci sarà prima o poi. Ci sarà sicuramente. Diciamo che verso la fine del 2011 probabilmente i tempi saranno maturi. Chiaramente per noi uscire non è soltanto, come dicevamo precedentemente, una questione di silicio. Bisogna mettere a fattor comune un'integrazione un po' complessa, esatto, con anche tutta la parte software, che ovviamente non è banale, quindi, però diciamo che più o meno fine 2011 è una data fattibile, un orizzonte possibile. Tecnologie wireless, visto che questo è un altro settore nel quale siete impegnati, noi dopo il wifi di grosse novità non ne abbiamo viste. Ogni tanto, insomma, vengono stabilite nuove evoluzioni del Wi-Fi, ma di fatto insomma quello è stata anche una grande rivoluzione che diciamo ha portato anche a proposito di cache parecchie soddisfazioni, perché Centrino è stato insomma un prodotto indovinato, insomma, che ha avuto molto successo sul mercato. Da questo punto di vista vi attendete o potete annunciarci delle novità imminenti o dobbiamo abituarci insomma a questo ecosistema che magari evolverà ma sostanzialmente rimane questo? No, beh, credo che il sistema wireless evolve in varie direzioni. Sappiamo che già WiMAX è disponibile in Italia su alcune città, verrà annunciato fra pochissimo il primo prodotto disponibile in Italia, che sarà un prodotto Acer con WiMAX integrato, distribuito proprio in quelle aree dove il servizio è disponibile, e quindi sarà possibile la connessione diretta in wireless senza avere in casa la struttura di access point. Questo è un esempio del fatto che comunque movimento c'è, si parla molto di LTE come altra tecnologia di 4G, quindi di evoluzione nella logica di avere sempre più banda di trasferimento, quindi e l'integrazione di queste tecnologie è una nostra cura. Una delle acquisizioni di cui parlavi in precedenza è quella della parte wireless di un'azienda tedesca, la Infineon, e questo per noi è molto importante perché porta in casa tecnologie che riguardano il mondo del 3G tradizionale, quindi tutta la parte diciamo radio di uno smartphone, ma anche tecnologie LTE che compendiano le tecnologie WiMAX in una visione ulteriormente futura. Quindi anche questa acquisizione è il sintomo di un interesse particolare nell'evoluzione della connessione wireless, che citavamo in precedente, è uno di questi tre pilastri su cui si fonda poi alla fine una strategia di comunicazione e di computing in qualche modo che vanno a braccetto. Prima dicevamo, abbiamo detto più volte che voi siete interessati a questi 15 miliardi e chissà quanti saranno poi questi strumenti che ci permettono di collegarci alla rete internet, visto che parliamo spesso 2024 anche delle TV che sono in grado di collegarsi ad internet, addirittura anche a questi prodotti siete interessati? Assolutamente. Ma ci sono già prodotti assolutamente, c'è un derivativo di Atom il cui nome in codice è Sodaville, che è un oggetto proprio pensato avendo una parte di manipolazione del segnale video per essere l'intelligenza e la connessione intelligente a internet per i televisori. Annuncio diciamo dell'inizio dell'estate di questa Google TV, che è un oggetto fatto insieme tra Google, Sony, Logitech e Intel, quindi un prodotto che vedremo probabilmente il prossimo anno anche in Italia, ma non solo, ci sono degli lavori fatti anche con operatori italiani per fornire oggetti sul mercato, non posso ancora anticipare moltissimo, però diciamo penso che a ottobre vedremo qualcosa di nuovo, fatti con Sodaville in Italia, che consentiranno l'utilizzo di queste tecnologie e la continuità di Migo, cominceremo già a vederla diciamo sulla televisione e prossimamente sugli smartphone. Bene, grazie a Dario Bucci per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Adesso cambiamo argomento. Sapete che c'è un'infrastruttura fondamentale per il futuro del nostro paese, per i cittadini così come per le aziende, per la pubblica amministrazione, ed è la costruzione di una rete in fibra ottica per supportare l'aumento del traffico della rete internet nei prossimi anni. Non solo, ma soprattutto per questo. La cosiddetta NGN, Next Generation Network, cioè il network, la rete di prossima generazione, perché si fa riferimento alla prossima generazione anche di cittadini e di aziende italiane, quindi un'infrastruttura che ha un orizzonte di 10-20, c'è chi dice addirittura per i prossimi 50 anni. Beh, di questo abbiamo parlato spesso a 2024, vi abbiamo presentato e abbiamo parlato anche dei progetti che stanno nascendo a livello regionale, perché se non si fa nulla a livello nazionale, le regioni, alcune regioni, soprattutto nel nord Italia, si stanno muovendo da sole. Prima fra tutte, soprattutto per l'investimento, perché supera il miliardo di euro in totale la Lombardia, ma ci sono progetti interessanti anche in Emilia-Romagna, in Piemonte, in Veneto, o comunque la discussione è avanzata. La rete andrà, questo lo dicono tutti gli esperti, andrà costruita con investimenti pubblici e privati, ma purtroppo nulla si muove a livello nazionale. Anzi, in settimana, pochi giorni fa, gli operatori alternativi a Telecom Italia hanno abbandonato il comitato NGN, quindi Next Generation Network, un comitato che è nato all'interno e operava all'interno dell'autorità per le comunicazioni. E soprattutto la spaccatura tra gli operatori non è controbilanciata da una forte guida politica, sapete che manca il ministro per lo sviluppo economico, e nemmeno dall'authority, che soprattutto gli operatori alternativi, e citiamoli, quelli che sono usciti, sono i principali, ovvero Vodafone, Wind, Fastweb, Tiscali, anche British Telecom, dicevo, l'authority più volte è stata accusata e criticata da questi operatori, non ultime le critiche che sono state mosse per l'aumento, ma questo non c'entra niente con il network di prossima generazione, ma è comunque un motivo di critica nei confronti dell'authority, dicevo, l'aumento che è stato deciso a favore di Telecom Italia del canone per far transitare i dati di questi operatori attraverso le reti ADSL per tutti i cittadini, il cosiddetto unbundling. A tutto ciò, quindi, diciamo, all'impasse al quale stiamo assistendo per la progettazione e la discussione per il futuro network in fibra ottica, a tutto ciò si aggiunga che i famosi 800 milioni per la banda larga, per ridurre le zone in digital divide, si sono sgonfiati e sono diventati 100. Questo è un investimento che serve solamente a tappare qualche buco per i prossimi mesi e i prossimi anni, nulla c'entra con il progetto futuro del Next Generation Network. Insomma, non ci stiamo preparando molto bene al futuro, e dire che l'investimento in tecnologie ICT è uno dei fattori più importanti per aumentare l'efficienza di sistemi complessi come una nazione, le aziende e anche la pubblica amministrazione. Di questo parliamo tra poco a 2024. Questa è l'ultima parte del nostro programma. Saluto Pierfilippo Roggero, che è presidente e amministratore delegato di Fujitsu Italia e ha anche un ruolo di primo piano in azienda per l'area dell'Europa sud-occidentale. Grazie per essere con noi, benvenuto. Buongiorno a tutti. Senta Roggero, quanto e come è misurabile la crescita della competitività di un sistema paese, di un'azienda, della pubblica amministrazione creata dagli investimenti in tecnologia ICT? Perché esiste un rapporto diretto tra questi investimenti e migliore efficienza dei sistemi, naturalmente maggiore competitività. Ci sono diversi parametri e fattori che possono essere utilizzati, che possono essere un riferimento per questo tema, però credo che, e soprattutto anche il rapporto tra investimenti in information and communication technology e in crescita del PIL, se analizziamo negli altri paesi e soprattutto negli Stati Uniti, fa individuare facilmente come ogni volta che l'investimento in information technology cresce, cresce poi anche la produttività e di conseguenza il prodotto interno dei paesi. In Italia il tema è sicuramente dibattuto, perché ne parliamo molto di innovazione tecnologica, ma probabilmente ancora utilizziamo l'innovazione tecnologica più come un strumento che viceversa una risorsa al cambiamento, cioè quindi una maggiore focalizzazione sullo sviluppo dell'impresa o la produttività della pubblica amministrazione piuttosto che la pura gestione dell'azienda. E questo credo che sia il passo necessario al nostro paese e a parecchie aziende ancora per avere un salto di produttività. Cioè lei dice Le aziende utilizzano, ad esempio, sistemi gestionali perché ne capiscono un immediato beneficio nella gestione magari di un particolare processo, ma faticano a comprendere le connessioni e il rapporto che c'è tra la tecnologia e forse una strategia più generale? Quello che intendo è esattamente questi termini, o meglio utilizzare la parola inglese purtroppo nel nostro settore, la business intelligence, quindi la possibilità di fare delle simulazioni per capire dove portare la propria azienda in funzione dei diversi scenari che possono verificarsi. E questo è chiaramente il modo migliore per utilizzare la tecnologia o l'innovazione tecnologica, guardando soprattutto anche alla revisione dei processi, perché la tecnologia è sicuramente un elemento fondamentale, ma se poi non vengono rivisti i processi all'interno delle aziende o all'interno della pubblica amministrazione, è difficile poi averne dei benefici. Senti, i problemi che noi abbiamo in termini tecnologici, diciamo così, sono problemi legati a un management poco giovane o comunque inadeguato a certi fenomeni che stanno succedendo all'estero, e qua mi riferisco solo alla parte di imprese private, e dall'altra parte funzionari della pubblica amministrazione, anche in questo caso insomma poco moderni. Ma indubbiamente c'è proprio un problema rispetto alle problema, tecnologie. C'è sicuramente un problema culturale, ma c'è anche un problema di cambiamento, cioè noi siamo, ritengo, arrivati al momento in cui le aziende debbano cambiare, la pubblica amministrazione debba cambiare, soprattutto sia richiesta, parlando soprattutto di pubblica amministrazione, una governance diversa da quello che abbiamo avuto fino ad oggi, cioè non basta avere delle tecnologie, è necessario fare una trasformazione affinché ci sia una maggiore focalizzazione appunto sullo sviluppo del paese. Questa governance manca, ed è quindi uno degli obiettivi, credo, delle aziende del settore dell'information technology, ma non solo, di noi tutti come cittadini, quello di auspicare una maggiore attenzione, una crescita dei servizi a scapito, o meglio, a favore di una maggiore attenzione di come utilizzare la tecnologia e quindi ridurre la spesa pubblica rispetto e indirizzare le risorse nelle aree di maggior sviluppo. Cito un numero che mi sembra molto interessante, ci fa capire un po' di scenari, che voi presenterete lunedì pomeriggio al Politecnico di Milano. È uno dei dati insomma, che servono per un dibattito intitolato Una nuova governance per l'innovazione in Italia, parlando di fatturazione elettronica. Questo è un trend in atto già da parecchio tempo in tutto il mondo, in Italia come sempre le cose accadono molto lentamente. Dite che si potrebbero liberare risorse addirittura per 60 miliardi, diciamo nella peggiore delle ipotesi 10 miliardi, ma nella migliore delle ipotesi 60 miliardi di euro, che è una cifra enorme. Questo che cosa significa? Prima però vorrei anche che ci dicesse che cosa intendiamo per fatturazione elettronica e in tutto ciò che cosa c'entra la pubblica amministrazione. Guardi, la fatturazione elettronica ha diverse definizione, ma quella più concreta, quella che ci potrebbe permettere di avere i benefici e i risparmi di cui lei parlava, che sono appunto oggetto dello studio realizzato con il Politecnico di Milano, è la gestione del processo end-to-end, quindi la gestione dell'ordine fino all'incasso, nel rapporto tra le aziende private e la pubblica amministrazione. Tenga presente che nell'ambito dell'Unione Europea c'è stato un obbligo verso tutti i paesi di introdurre il concetto, non solo il concetto della fatturazione elettronica, ma anche la fattiva cooperazione tra pubblico e privato. Ad oggi pochi paesi ancora l'hanno introdotto, ma alcuni ci sono già, ricordando la Danimarca, la Spagna entro la fine di quest'anno, i paesi tipicamente nordici, e in altri paesi già si sta facendo passi in avanti significativi in questo senso. In Italia l'abbiamo introdotta come legge nel 2008, ma poi non è diventato mai decreto attuativo. Al di là di questi aspetti tecnici, il beneficio reale è quindi una forte riduzione dei costi da un lato, ma anche una forte attenzione all'ambiente. Tenga presente che il numero di carta esattamente che viene circolata, no? Per la fatturazione tra pubblico e privato, però non dobbiamo limitarla al concetto della dematerializzazione, perché sarebbe limitativo e porterebbe un risparmio. Sì, sì, diciamo avere tutto questo processo all'interno delle macchine piuttosto che sulle scrivanie o nelle buste che circolano per l'Italia sarebbe anche utile per quello che dicevamo prima, cioè la business intelligence, ovvero l'analisi di quello che succede. Assolutamente. Senta, la pubblica amministrazione, non penso solo alla fatturazione elettronica, penso all'insieme dei rapporti che vengono generati tra pubblico e privato. La pubblica amministrazione ha sicuramente un ruolo di spinta, perché se pensiamo, lei citava il caso della Danimarca, se la pubblica amministrazione obbliga tutti i privati a fare fatturazione elettronica, poi una volta che io come privato mi sono organizzato, va da sé che poi questa cosa la estendo anche agli altri rapporti. In questo contesto, cioè dato per scontato quello che ho detto, il privato può fare qualche cosa da solo o fa fatica? No, il privato può fare qualcosa da solo, nel senso che nel rapporto con gli altri privati può comportarsi in questo senso, nel rapporto con le banche molte aziende stanno già operando in questo senso. Sta già succedendo all'interno del mondo privato, sicuramente molte aziende cooperano e collaborano in questo modo. Abbiamo detto che l'investimento in tecnologie, soprattutto in un periodo come questo, potrebbe essere una leva straordinaria per la crescita, però se noi guardiamo agli investimenti, anche questa settimana Assinform ci ha comunicato i dati della prima parte dell'anno, vediamo che gli investimenti delle aziende italiane in tecnologia non crescono. Sono in contrazione perché chiaramente, essendo in un periodo di non crescita del mercato, di parziale crescita del mercato, le aziende tendono a ridurre gli investimenti in quelle aree che solitamente ritengono meno prioritarie. Basti pensare al tema della pubblicità piuttosto che gli investimenti in information technology. E questo è, se vuole, un limite alla crescita. Da un altro lato si sta verificando viceversa un fenomeno di spostamento, quindi di terzializzazione dei sistemi informativi, voglio dire di outsourcing, così come viene chiamato, proprio per dare in gestione a dei player dell'information technology i propri data center o la propria tecnologia, le proprie applicazioni, e focalizzare viceversa le proprie risorse, quindi non investire, non avere nell'ambito degli asset aziendali o del dover continuamente innovare o la tecnologia o gli applicativi, ma chiedere un servizio con ovviamente delle performance predefinite. Questo è un fenomeno che sta avvenendo. Le riporto un caso specifico che è quello che recentemente abbiamo chiuso in Olanda con Friesland Campina, che è un'azienda che produce latte e formaggi abbastanza grande, un'azienda di 11 miliardi di euro. Con una presenza in diversi paesi, che ha demandato, in questo caso a noi, visto che abbiamo vinto questo progetto, tutta la gestione del loro data center, focalizzando viceversa la loro attenzione come sviluppare il loro business, come creare nuovi prodotti, come migliorare le loro performance sia in termini di produttività o di profittabilità, sia in termini di crescita nei diversi mercati sui quali sono focalizzati. E questo, secondo me, è il passaggio che deve essere fatto, quindi non soltanto avere la paura di investire in tecnologia, ma avere la certezza di investire in sviluppo del business e demandare a terzi la gestione dei sistemi informativi, togliendo un po' la preoccupazione quale tecnologia scelgo, cioè, se ne esce una nuova, come mi comporto. Questo è particolarmente ben augurante per le piccole e medie imprese. Questo è uno dei temi ben auguranti, o sicuramente di maggior sviluppo delle piccole e medie imprese. Si parla tanto di cloud computing come uno dei principali, ma questo è e sarà uno dei principali servizi che verrà messo a disposizione delle imprese e che potrà permettere alle medie e piccole imprese di sviluppare, quindi non focalizzarsi. Immagino io che se un'azienda è grande sia sufficientemente strutturata, magari anche le competenze interne per fare certi investimenti e per acquisire all'interno del proprio perimetro certe tecnologie. Forse per il piccolo è più facile. È vero, ma tenga presente che ci sono dei casi, se lei guarda soprattutto la pubblica amministrazione inglese, che ha iniziato ancora 10 anni fa i progetti, quelli che vengono chiamati i triplo P, privato pubblico partnership, che è stato focalizzato sull'outsourcing, quindi sulla demandare a società di information technology questo tipo di gestione. E in Italia si era avviato come si ricorderà, con i temi del project financing, che però non è mai esploso a tutti gli effetti, non ha mai toccato il tema dell'information and communication technology, e quindi è rimasto sempre una situazione non compiuta. Senta, per tornare alla pubblica amministrazione, ci sono altri filoni, altri trend che potrebbero essere percorsi per far fiorire tutte le possibilità che ci sono, che la tecnologia può offrire? Assolutamente sì, ci sono altri filoni che sono, molti filoni che ovviamente sono interessanti, ma quelli prioritari credo che sia quello della sanità, che molto fa in termini di investimento, tecnologie specifiche del settore, ma probabilmente ancora poco sta facendo, se non in casi isolati di grandissimo valore, sta facendo viceversa per la revisione dei processi. Nel rapporto tra mondo ospedaliero e aziende farmaceutiche, noi riteniamo che questo possa portare dei benefici in forte contrazione della spesa farmaceutica, che come lei sa è una delle principali spese dell'ambito della pubblica amministrazione e della sanità. E quindi chiaramente questo però cosa comporta? Comporta ancora una volta una governance. Non è possibile che ci siano delle regioni come noi abbiamo di eccellenza, come ad esempio la Lombardia, e altre viceversa che ancora stentano ad avere un indirizzo in questo senso, proprio perché manca una governance comune che dica quali sono gli investimenti prioritari e su questo mantenga poi il timing affinché ciò avvenga. Bene, io ringrazio Pier Filippo Roggero per essere stato con noi e per questi punti che abbiamo tracciato, che sicuramente fanno parte delle discussioni di business che lei farà non solo in Italia ma anche in Europa, ma lo ripetiamo, questo è un messaggio importante, sono alcuni indicatori per diventare più competitivi e per far crescere il paese e, devo dire, poi in definitiva anche rendere migliore la vita dei cittadini, perché se i servizi sono più fluidi e veloci, questo è sicuramente di buon auspicio. Un'ultima domanda gliela faccio sull'Europa. Abbiamo citato alcuni casi, ci faccio capire se siamo veramente gli ultimi, adesso a parte la Grecia, magari a parte altri paesi veramente più in difficoltà, tra i fondatori almeno dell'Unione Europea, siamo proprio ultimi? No, a mio avviso non siamo ultimi, ma stiamo perdendo tanti treni, quindi è opportuno che ci sia un cambiamento forte ed importante, e quindi vi aspetto tutti al Politecnico di Milano lunedì alle 14.30 in via Ampere. Bene, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie, arrivederci a voi. E così abbiamo concluso con la voce di Pier Filippo Roggero, presidente amministratore delegato di Fujitsu Italia, questa prima puntata della nuova stagione di 2024. Aspettiamo le vostre considerazioni alla nostra email 2024@radio24.it. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Mi raccomando, continuate a scaricare il podcast del nostro programma e magari suggerite anche ai vostri amici, ai vostri colleghi di downloadare, di abbonarsi gratuitamente a questo servizio molto comodo. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 16 e le 17, oppure di nuovo nella versione podcast. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.